La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. L'articolo 87 elenca i poteri del Presidente della Repubblica. A una prima lettura potrebbe sembrare un elenco quasi superfluo, e invece è molto importante capire come i costituenti vollero delimitare la figura del Presidente della Repubblica. Ovviamente si usciva da una monarchia e bisognava stabilire come, in una forma di governo parlamentare, potesse intervenire il capo dello Stato. Ecco allora che diventò essenziale definire puntualmente i poteri del Presidente della Repubblica. Nell'elencazione, innanzitutto, si stabilisce che il Presidente della Repubblica è capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, un riconoscimento formale per far capire che il Presidente della Repubblica è l'acme della Repubblica, ma di una Repubblica parlamentare. E poi vengono elencati i poteri. Può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni, autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi, promulga le leggi, emana i decreti aventi valore di legge, indice il referendum, nomina i funzionari dello Stato, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio della Magistratura, può concedere grazia e commutare pene. Inoltre conferisce le onorificenze della Repubblica. La lettura di questa elencazione ci fa capire che il Presidente della Repubblica non è un potere proprio, cioè non è un quarto potere rispetto ai tre poteri classici legislativo, esecutivo e giudiziario, ma in fondo condivide ciascuno di questi poteri. Ecco infatti che incide sul legislativo con i messaggi alle Camere e la promulgazione delle leggi, incide sul governo con la nomina del Presidente del Consiglio e ancora sulla magistratura riguardo alla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura e la funzione di concedere grazie e commutare pene. Ecco allora che grazie all'articolo 87 che il Presidente della Repubblica diventa un potere neutro, cioè un potere di freni e contrappesi. Quindi tocca tutti i poteri tradizionali, ma non rappresenta un ulteriore potere perché è il punto di bilanciamento della forma di governo.